piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono sospese ovviamente le attività didattiche nelle scuole, nelle università, salvo quelle a distanza. Amo, hai visto? Sì, che ho visto, Mi. Amo, io comunque non me lo ricordavo così carino Conte. Ma che c'entra Conte, Mi? È un'emergenza, dobbiamo stare in quarantena. Capito, amo, guarda, non siamo uscite fino ad ora, capirai? Capito, ma che facciamo a casa? Amo, guarda, iniziare a sistemare l'armadio che vedi che il tempo ti passa. Vabbè, dai, faccio il cambio di stagione a sto punto. Bella quarantena, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ragazzi, avete news oggi? Nonna! Patrizia! Patrizia, mia, stavo pregando. Ah, sta a vedere la messa. Ce l'hai i soldi ancora? Quello che abbiamo scritto è una clip, un tranche de vie di una ragazza in quarantena preso da un canale YouTube, quello che le ragazze non dicono. Devo dire che per la prima volta oggi voglio fare un esperimento radiofonico. Vorrei rivolgermi a un pubblico di età media sui 20 anni. Poniamo un limite, oggi non prendiamo telefonate di persone che hanno più di 30 anni. Il rischio di parlare da solo lo so benissimo. Il mio pubblico mediamente a quest'ora, in questa fascia oraria, in questa emittente radiofonica, è di ben altra generazione. Ieri ho fatto la trasmissione sui famosi affetti stabili. Beh, mi ha chiamato soltanto persone che mi parlavano di amori post-climaterici, gente di 60, 65 anni, 70 anni. Voglio vedere il mio fidanzato, la mia fidanzata. Sono miei contemporanei, non ho nulla da dire. Non devo scherzare o irridere quella che è l'età avanzata, però ogni tanto vorrei prendere una boccata d'aria e vorrei anche rendermi conto che esiste un potenziale pubblico della radio che non è soltanto fatto di gente che ha un fulgido passato, di gente che vorrebbe avere anche un luminoso avvenire se possibile. Cosa fanno in questo periodo i ragazzi? Beh, io ne ho due sotto mano, di età media, 22-24 anni, uno parla poco e l'altro proprio non parla perché è autistico, quindi non è che ho grandi testimonianze in famiglia per potervi dire cosa fanno i ragazzi. Mediamente stanno chiusi in camera loro e usano nella maniera migliore cui si possano usare tutti i mezzi di interazione digitale che hanno a disposizione per mantenere vive le loro amicizie, i loro amori, seguire il filo delle loro speranze. Molti studiano, approfittano di questa occasione in cui magari le scuole e le università sono un po' più di manica larga e poi tanto non c'è alternativa, bisogna stare a casa. Però mi pongo anche un tema di coscienza. Può essere che io mi ponga il problema della astinenza amorosa, relazionale di persone attempate come me e non mi ponga il problema di chi ha 20 anni e sta a casa con ben altre aspirazioni, ben altre energie, ben altro desiderio, ben altro diritto di scoperta. E quindi oggi voglio parlare con loro. Come faccio? Beh, innanzitutto do il telefono 800 24 0024. Immagino che accanto alle mamme, papà, le nonne, le zie, che sono il classico pubblico del soffritto che mi ha sempre ascoltato a quest'ora, da quando trasmetto a quest'ora, e quindi probabilmente hanno la radio accesa e qualcuno magari getterà un orecchio a questo strano signore che con un maglioncino da folle, con dietro la bambola assassina Chucky, con una paperella, con una morte presa dal Dia de los Muertos messicana, con una spada da samurai, con una foto di antenati che non ha mai avuto ma comprato da un rigattiere, ogni giorno parla e cerca di raccontare il mondo. Non so cosa abbia io con loro in comune, gli anni scorrono veloci, passano, uno si trova a aver compiuto un salto generazionale e così, con la stessa leggerezza e la stessa inconsapevolezza con cui magari ci si alza la mattina e ci si lava i denti, sono passati 10 anni, 20 anni, e io che ricordo che apparteneva a una generazione di giovani giornalisti, le nostre speranze, quando cominciavo a fare radio, appartenevo a quelli che erano i giovani, chi mi guardava con invidia e con malcelata voglia di sopprimerci erano i colleghi che avevano probabilmente anche meno dell'età che ho ora. Beh, io continuo ancora a fare radio, la faccio a casa mia, la faccio probabilmente con gli stessi apparati che hanno tanti ragazzi che ogni giorno comunicano attraverso i loro canali Instagram, YouTube, TikTok, non so esattamente, ma che comunque hanno possibilità di raccontare ogni giorno la loro giornata. Io posso giocare sul fatto che racconto il mio passato, racconto la mia storia, racconto le mie esperienze, ma loro sono così freschi di vita, cosa raccontano? Beh, io questo lo voglio sapere, lo voglio capire e di questo voglio parlare oggi. Quindi, giovani in ascolto, oggi è la giornata in cui farete questo grande regalo a un signore con i capelli bianchi e la faccia sconvolta, di raccontarmi cosa stanno facendo i giovani, perché nessuno se ne occupa. Ogni giorno vediamo grandi conferenze stampa, grandi dichiarazioni, che paradossalmente riguardano soltanto le persone che è bene che se ne stiano tappate dentro casa, perché sarebbero le prime potenziali vittime. O se no ci sono questi piagnistei, poveri bambini, come faranno i bambini che non vanno a scuola? 2 mesi stanno a casa, ma chi se ne frega, non è quello il problema. Poniamoci dei problemi di tipo diverso, cosa fanno i ventenni, quelli che stanno per laurearsi, quelli che affilano le armi per impossessarsi del mondo, quelli che sanno benissimo che esiste una generazione di pensionati o pensionabili che non mollerà mai l'osso, resterà sempre in quel posto fino a che morte non lo separi da quella scrivania, da quello scranno, da quel posto di potere, da quell'angolino che si sono conquistati. Beh, 800240024, giovani, se ci siete parlate, sennò io riempo tranquillamente il tempo fino alle 1 senza nessun problema. Questo percorso personale di studio di inglese mi ha portato ad avere un accento americano abbastanza fluent, un livello di inglese insomma abbastanza alto. La vittima di oggi sarà my mother e vedremo oggi che cosa succederà, perché io ogni tanto le parlo in inglese per tenerla sempre sul pezzo. Do you have any hobbies? Pilates. Do you know how to pronounce Pilates actually? Pilates. Pilates. No. It's very, it's Pilates. Better. What kind of movie do you like? Costei è Diletta Begali, detta Didi. È una YouTuber, gestisce il canale YouTube Call Me Didi. Ha 22 anni, è appassionata degli Stati Uniti, senza riserve, tanto che ha studiato perfettamente l'americano e lo parla quasi come una madrelingua. Si è laureata a Milano, quindi è una ragazza che studia. Non è di quella categoria, ma cosa fanno questi ragazzi, gli youtuber, gli influencer, Dio mio, li pagano per non fare niente, qual è la loro specializzazione? Quelle belle trasmissioni da Mario Giordano, pieni di vecchioni putrefatti, che invidiano la capacità dei giovani di sopravvivere nonostante tutto. Io non sono un ammiratore dei giovani, io invidio i giovani e odio il giovanilismo, e mi attengo lontano dai giovani come Superman si tiene lontano dalla criptonite. Perché? Perché il contatto con il giovane è contaminante per il vecchio, ti suscita gli istinti peggiori, però mi piace osservarli, scrutarli. E questa ragazza giorni fa la colse in tonti in un momento di euforia, usciva dalla doccia con un asciugamano in testa, vive a casa con i genitori, e a lei sembrava una cosa fantastica che avessimo mandato uno spezzone del suo programma a Melog. E scoprire questa ragazza sapeva perlomeno cosa fosse la radio in cui lavoro, cosa facessi tutti i giorni. E mi sorprese la sua sorpresa, come lei dice, come io che faccio un lavoro così marginale divento interessante per una radio nazionale importante. Io non sono importante, non è importante quello che sto facendo io, faccio il mio lavoro, ma oggi ho al telefono Didi perché voglio da lei sapere come passa le sue giornate. Diletta, buongiorno. Buongiornissimo, eccoci qui. No, buongiornissimo, no, ecco, mi fai raggrinzire le gonadi dicendo buongiornissimo caffè, no, presa per il culo, perché no, è il cinquantenne, buongiornissimo qua, è il cinquantenne assolutamente privo di strumenti e di educazione digitale che la mattina dice buongiornissimo caffè e fa pulizia a contatti. No, bisogna iniziare bene la giornata. Ho letto anch'io. Bisogna avere un po' di energia positiva perché altrimenti qua non si supera. No, non mi dire energia positiva, dai, ma sei giovane, dici energia positiva. Però lascialo dire a Nicoletta Carbone quando fa le sue lezioni di sopravvivenza. Come passi la giornata, Didi? Una ventenne cosa fa oggi? Cosa ti aspetti te? Allora, diciamo che le prime 2 settimane di quarantena ero quasi partita carica perché ero piena di nuovi hobby da iniziare. Ho detto wow, faccio un sacco di cose. Ero veramente, veramente molto carica. Poi ovviamente la terza settimana carica ero già... di cosa? Fammi capire, cosa vuol dire molto carica? Ero carica di sfruttare questa quarantena al meglio, non volevo farmi buttare giù dal fatto che dopo 3 anni insomma a Milano, vivere fuori casa e viaggi in giro per il mondo, esperienze in giro per il mondo, insomma dovevo ritornare a casa poi a Verona e ho detto va bene, voglio sfruttare questa situazione al meglio. Fammi capire, Diletta, tu sei tornata a casa dei tuoi perché tutto sommato era la condizione migliore, state vicini. Tu ti sei laureata, dico, ma per passare una possibile quarantena, che non sapevamo all'inizio quanto sarebbe durato, ho detto la cosa migliore è tornare in famiglia, sto vicino ai miei, ci assistiamo a vicenda, quindi sei quello che nel cuore di ogni mamma in ascolto, di ogni nonna, sarebbe la brava ragazza, diciamo la verità. No, in realtà sì, io a casa mia per fortuna sto benissimo, ho una famiglia incredibile, veramente ci divertiamo tutti, poi sono comunque vicino a mia nonna, quindi anche sentirla tutti i giorni, insomma, anche se abitiamo abbastanza vicine, però ovviamente per questa situazione ci sentiamo al telefono. E quindi sono tornata a casa mia e ovviamente chiusa nel mio mondo, come dicevi prima, in camera, perché anch'io non è che esco poi da camera mia così tanto, passo praticamente tutte le ore qui, esco per mangiare. Anche mio figlio è chiuso in camera sigillato, lui sta per laurearsi. Fantastico, è proprio il nostro piccolo mondo, ecco, io sono sempre chiusa in camera alla fine, anche mio fratello. Quindi diciamo la condizione media di un ventenne, che ha aspirazioni, che ha desiderio, che investe su se stessa in questo momento, è conquistarsi un recesso intimo a casa, la propria cameretta, che è il luogo da cui si vorrebbe scappare alla tua età più o meno, perché è il simbolo del legame con la famiglia. Contraddicimi se dico cazzate, esattamente, poi dico come la vedo io, vedo mio figlio chiuso in camera, però evidentemente è l'astronave che lo proietta verso un mondo che non è certo quello dei genitori o quello che si vede intorno, della conferenza stampa, della protezione civile, delle sorpresine notturne la domenica del presidente Conte. Quello è un altro mondo, è il mondo che voi spero vi lasciate dietro le spalle, o almeno ambite a lasciarvi dietro le spalle. Oh sì, io alla fine ovviamente cene, pranzi, siamo tutti in cucina che guardiamo alle volte il telegiornale, però la maggior parte di Big Bang Theory tutti insieme, perché ci piace molto quella serie TV, quindi abbiamo quel momento collettivo tutti insieme, poi c'è la serata magari cinema che ci guardiamo un film in salotto tutti quanti insieme, però la maggior parte io sono in camera mia, poi anche per quello che faccio, insomma, mi posso ascoltare la mia musica. Ecco, tu hai un tuo canale, sì. Quindi tu diciamo hai un tuo network individuale. Sì. Cosa trasmetti, cosa racconti te tutti i giorni? Cosa hai da raccontare? Bella domanda. Io in realtà ho sfruttato questa quarantena per raccontare proprio la vita di tutti i giorni e sfruttare soprattutto il mio canale per intrattenere anche me stessa, perché alla fine raccontare anche solamente ok ragazzi, adesso mi faccio uno yogurt con dei cereali, in qualche modo intrattiene, perché è un po' la vita di tutti i giovani di questo, insomma, in questi giorni. E sono passata, diciamo, a raccontare storie di ragazzi, ecco, vi porto insieme a me nel mio viaggio a Londra, a raccontare dell'inglese, a raccontare dei miei coinquilini, a tornare a raccontare la vita di tutti i giorni, che sia far vedere la mia routine, mi faccio il letto, mi faccio il caffè, che ormai insieme ai miei, diciamo, followers o comunque iscritti, è diventata le 16 l'ora del caffè. Oppure dimmi una cosa, proprio come Diletta, come consiglio a un collega tuo che fa più o meno lo tuo stesso lavoro. Le routine ormai cominciano a sovrapporsi, fanno tutte le stesse cose. Sì. Diciamo che la quarantena ha livellato tutti gli stati sociali, anche le età, perché delle signore sessantenni fanno quello che fai te in maniera molto più approssimata, ma raccontano su Facebook, ormai è il social network dei vecchi, quello che fanno il giorno, fanno vedere che impastano, che fanno le tagliatelle, si fanno vedere ancora in dei barlumi di fighettaggine che cercano di ritrovare con luci particolari, facendosi inquadrature particolari, c'è tutta la seduzione, c'è tutto il desiderio, le ansie. Ecco, qual è l'elemento originale? Perché noi sono 2 mesi che raccontiamo tutto il nostro quotidiano. Alla fine ci dovrà essere una svolta, ammesso, non voglio essere uccello del malaugurio, ma metti caso che dobbiamo stare un altro mese dentro, che ci raccontiamo per un altro mese? Allora, io penso che lo strumento, come anche dicevi prima, che un po' lo strumento degli adulti è il telegiornale, noi siamo sempre sui social. Io credo che alla fine anche le videochiamate con gli amici, insomma attraverso le chiamate su WhatsApp o comunque anche su Instagram, sono riuscita a mettermi in contatto con amici che ho in America, in Spagna, quindi secondo me i social sono la piattaforma esatta e giusta per uscire dalla quarantena in qualche modo per sentirsi un attimo vivi, per riraccontarsi con gli amici, anche se oddio hai cambiato il pigiama oggi, wow, ah, ho fatto la doccia finalmente, cose così però che ti fanno ritornare in quello stato sociale. Dell'acqua non l'hanno razionata ancora, dai, la doccia si può fare. No, però è proprio adesso noi giovani ci troviamo a vivere senza la nostra vita sociale, diciamo. Alla fine io anche quando studiavo, perché ovviamente adesso sono laureata, dicevo stacco la spina, vado fuori a bermi un caffè al bar, una semplice azione del genere che adesso mi sembra anche quasi strano non poter sfruttare, di oddio stacco la spina, andiamoci a bere un caffè, ti prego, anche solo mezz'ora. Però ti rendi conto, Eleonora, io ho notato, scusami, Diletta, perché Eleonora al telefono. Una cosa ti dico, poi passiamo a qualche tuo collega, stanno chiamando dei ragazzi, finalmente siamo riusciti a sfondare il muro dell'indifferenza. Volevo dirti, il paradosso è questo, in questo momento sembra che nell'attenzione generale ci siano i due estremi, i poveri bambini che poverini non possono socializzare, non possono andare a sminchieggiare in giro, non possono correre, non si possono scatenare, quindi non stare a casa, avranno traumi inenarrabili. E i poveri vecchi, come si dice dalle mie parti, che poveretti, sai, anche loro hanno diritto, e giù, certo. Allora, settantenni, sessantenni, cammino a tre gambe, devo vedere la mia fidanzata, come faccio a star sola e via dicendo. Ma la parte fondamentale della nostra società, che siete voi, che avete vent'anni, appena laureata, che spero per te e anche di per noi, che prima possibile hai le redini in mano della gestione della, dei meccanismi che in qualche maniera regolano e costruiscono quello che è anche l'ordine sociale, l'economia, via dicendo, di voi non se ne frega niente a nessuno. Se voi foste destinati a una sorta di ascetismo, il fatto che dici stiamo sui social, ma non mi dici ho bisogno anch'io di vedere una persona, di abbracciare una persona, stringere una persona, fa parte di questa grande tabuizzazione. I giovani comunque devono essere asceti e angeli, non se ne parla mai, come mai? Guarda, io ne stavo parlando con mia nonna l'altro giorno, che mi ha detto dal balcone, quando insomma le ho portato, dovevo andare a prendere del cibo, lei mi fa, a me ci penso sempre perché io la mia vita ormai l'ho fatta e sono in pensiero sempre per voi giovani che siete stati come bloccati. Io la sto da una parte... Vabbè, sono due mesi, adesso non esageri, la nonna, no, per due mesi in blocca nessuno. Però uno si rompe una gamba, sta due mesi a letto, non è il problema ancora. Però anche solamente l'idea di viaggiare, perché io prima insomma di questa quarantena spesso mi facevo magari un viaggio, o il fatto che insomma siamo bloccati e chissà quando potremo, non so, riprendere un aereo, è questa un po' secondo me la mentalità che a me un po' spaventa, perché come dicevi anche prima, chissà se dobbiamo stare in questa situazione ancora per un altro mese. Quello che perfetto, fermati un attimo, fermati un attimo. Eleonora da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Quanti anni hai, cosa fai, velocemente? 24 e sono una studentessa, studio filosofia. Allora ferma lì, resta in attesa. Corrado da Genova, buongiorno, quanti anni hai, cosa fai? Buongiorno, 22 anni, sono studente di economia aziendale e lavoro in una società di consegne ecologiche. Ecco, fatevi un bel respiro, aspettate un minuto, c'è la pausa, poi riprendo con voi. Melog 800240024, questa mattina facciamo un esperimento, chiameremo a parlare ai microfoni di questa radio soltanto persone di età inferiore ai 30 anni, vogliamo esaudire la nostra curiosità su una generazione che è abbastanza fuori dell'attenzione generale. Si parla di vecchi, si parla di bambini, chissà perché non si parla di giovani, che poi in realtà sono quelli che probabilmente soffrono più in questo momento di stop, di blocco, perché sono quelli lanciati nel momento di massima intensità verso la loro vita futura, a costruire, a immaginare, a pensare, invece devono stare a casa. Sono quelli che logicamente hanno più diritto di avere possibilità di soddisfare le loro pulsioni, i loro desideri, la loro voglia di stare assieme, e se ne devono stare a casa. E noi ci commuoviamo per i sessantenni e settantenni che non possono incontrare la fidanzata. Sono quelli che in realtà ci stanno rimettendo di più, perché chi ha finito gli studi, chi sta studiando, chi si avvicinava al mondo del lavoro, si ritroverà dopo un deserto molto più impraticabile di quello che ha lasciato. Stavamo parlando con Diletta Begali, detta Didi, che ha un canale YouTube, che è una studentessa, anzi è una laureata che è tornata a vivere con i genitori, perché cosa deve fare? Una ragazza che la chiave di lettura della sua vita era il viaggio, era la conoscenza dei paesi stranieri, delle lingue straniere, e adesso ne sta con la mamma e racconta tutti i giorni la sua vita attraverso il suo canale Colmi Didi. E abbiamo sentito altri ragazzi stanno chiamando, ne ho accennati altri due e ne stanno chiamando ancora altri, quindi avevo iniziato con Eleonora da Roma, mi pare. Eleonora, ci sei ancora? Buongiorno, sì, eccomi. Allora, comincia a raccontarmi come ha fatto, appena fatto Didi. Voglio capire, tu hai 24 anni, più o meno sei sì. La sua generazione. Tu devi laurearti ancora? Sì, mi laurerò a luglio, sono nel pieno sì. degli ultimi esami e della scrittura della tesi, quindi in realtà questo periodo un po' mi ha fatto gioco, perché ho avuto un tempo inedito che non avrei mai potuto avere probabilmente se le cose fossero rimaste come sempre, quindi in realtà è stata anche un'occasione, io l'ho vista così, una concentrazione mai vista. Un segno del destino, sei più concentrata, tanto non devi andare sì. da nessuna parte, meno rimpianti. Sì, esatto, diciamo. Meno distrazione. Meno impegni, quindi in realtà da una parte c'è anche il timore che poi alla fine di tutto questo non avrò tempo di fare tutto quello che devo fare, perché in questo periodo mi sto dicendo, ma come facevo prima a fare tutto quando la mia vita era molto più articolata, e questo perché comunque dal mio punto di vista rimango piuttosto ottimista che poi le cose prima o poi andiamo al sodo, Eleonora, rispetto quindi, al problema, sì. il problema delle amicizie, degli amori, delle relazioni, sì, senza entrare sì. nella tua sfera privata, secondo te quanto sì. pesa in questo momento una generazione che è nell'età in cui ci si sperimentano i sentimenti, ci si sperimenta le conoscenze, ci si sperimenta la relazione, questo stop che non era previsto da nessun indicatore delle vostre vite, come lo state giudicando, come lo state vivendo? Sicuramente è vero quello che dicevate, il fatto che sembra che nessuno pensi anche a certi sentimenti di noi giovani, al fatto che queste relazioni, che siano di amicizia o di amore, comunque hanno una legittimità pur non essendo giuridicamente finite, quindi sicuramente questo è frustrante. Vorrei vedere, scusami, non mi capisco, mica il suggello giuridico no, però sancisce sembrerebbe la legittimità. Sembrerebbe anzi. A volte essere così, a volte almeno io in quanto fidanzata non mi sento riconosciuta particolarmente, ecco, nei miei sentimenti. Tu dici nell'affetto stabile relazione. Ancora non hai visto allucinare la figura della tanto. Persona che vuoi incontrare? Ma io no, io credo che in qualche modo non si dia molto peso a ciò che non è poi in qualche modo definito dalla legge, definito da qualcosa di molto preciso e appunto. Senti, io direi stabile. Che quello che ho detto ieri, che sostengo, che trovo totalmente lontano da ogni realtà e anche da ogni legge di libertà contemporanea, il fatto che si releghi all'ambito dell'affetto e della stabilità il diritto di incontrare persone, perché se è pericoloso nessuno si deve vedere, non so se sei d'accordo, se non è, se ci sono dei margini di discrezionalità tu devi poter vedere anche non soltanto il tuo fidanzato ufficiale, ma anche gli amici con cui vuoi stare, le persone con cui vuoi sperimentare relazioni, qualunque cosa, cioè se non lo fai te che c'hai 24 anni di muoverti senza il gioco, la necessità dell'affetto, del rapporto stabilito, chi lo fa? Fammi capire. Sì, esatto, è un po' frustrante rendersi conto che c'è probabilmente anche una considerazione un po' arcaica di quelli che sono i rapporti rilevanti, quindi i rapporti strettamente familiari, consanguinei, quando in realtà ormai la nostra socialità è molto più articolata, molto più ricca, quindi esatto, se non è possibile vederti perché è pericoloso, allora tanto vale limitare ogni tipo di vicinanza, ecco, perché poi ci sono tutta una serie di relazioni che non si sentono riconosciute e che sono invece importanti. Ecco. Ma senti il bisogno a 24 sì. anni di avere un riconoscimento pubblico delle tue relazioni? Te non potresti frequentare una persona solo perché ti piace l'odore della sua pelle, che ti importa? No, certamente. L'affetto e il suggello di reciprocità è importante. Devo capirlo, nella tua età com'è? Noi siamo libertini perché siamo vecchi e non potremmo essere altrimenti, ma voi giovani come siete? Ma sicuramente non soffriamo generalmente di questo, del fatto che le nostre relazioni possano essere considerate di secondo grado, però in questa situazione di fatto non veniamo molto considerati, ecco. Poi al di là di tutte le questioni generate attorno al termine congiunti, che può essere esteso, può essere manipolato, però insomma in questa situazione lo percepiamo particolarmente, che ci sono dei valori, diciamo, nessuno tiene conto della vostra generazione. Sembra che tutte le leggi, i regolamenti, i decreti siano fatti soltanto o per i vecchi e un po' meno, perlomeno nell'opinione pubblica, per quelli che ancora non sono nell'età di relazioni autonome. Sentiamo Corrado da Genova. Corrado, 22 anni, tu cosa fai invece? Buongiorno, io sono studente di economia aziendale, ho quasi finito il mio triennio e nel frattempo è già da quasi 3 anni che lavoro in una società di consegne ecologiche qui a Genova. Di fatto al momento sto proprio lavorando mentre vi chiamo. Quindi se riesci già comunque a tenere un piede anche nel mondo del lavoro con tutte le difficoltà che ci sono, pur sì, studiando? Ormai in realtà è da quando ho 17 anni che tengo un piede nel mondo del lavoro, ne ho cambiati moltissimi. E tra l'altro ho viaggiato anche parecchio per lavorare, sono stato a Londra un pochino di tempo quando avevo iniziato la mia prima esperienza universitaria e poi sono tornato qui a Genova, dove mi trovo decisamente meglio, ho proprio cambiato indirizzo totalmente. Prima mi dedicavo a legge politica, adesso economia invece. Come ti spieghi, Andrea? Io non è che ho cercato col lumicino, ho fatto una selezione, che stanno emergendo questa mattina un campionario di esseri umani di età inferiore 30 anni, anzi tutti sui 20 anni, che non corrispondono a nessuno dei modelli più triti, più frequentati. Non siete sdraiati, non siete i figli di Michele Serra, ma nemmeno quelli di tutti i miei colleghi, che quando parlano dei figli parlano come degli alieni che, poverini, non sapranno mai cos'è il mondo. Tu stai dando lezioni di pragmatismo a molte persone in questo momento. Perché state nascosti e nessuno si accorge che voi esistete? Ma allora, se vuoi una spiegazione sul fatto che stiamo chiamando proprio noi, tanto penso che ci sia una fetta minore di popolazione giovane che ascolta questo tipo di trasmissione. E sì, effettivamente, da quello che si sente in qualsiasi media, talk show, gli argomenti più comuni, i luoghi più comuni, di cui si parla più spesso, sono quelli del giovane che non ha voglia di lavorare, che non ha voglia di uscire dalla sua area di comfort, che ha poco spirito di iniziativa. In realtà poi vengono fuori, a parte nel mio caso, ma anche un sacco di gente, persone che conosco della mia età, persone che si fanno il mazzo per poter creare la propria attività, la propria impresa, che partono e vanno a studiare fuori Italia per anni, facendo anche molti sacrifici per potersi mantenere. La domanda che mi facevo io, in realtà sono sempre stato convinto che la categoria del bimbo minchia è rappresentata in persone che oggi hanno 40-45 anni, fino a 55 anni. La vero bimbo minchiaggine è in questa classe intermedia. Quelli che hanno meno anni, lo so perché ho un figlio che osservo molto, secondo me avrebbero molto da insegnarci. Senti, mi dice anche te il problema della relazione, perché nessuno si preoccupa dei giovani, che alla fine anche loro hanno più ormoni, più desiderio e più diritto anche di frequentarsi, certo, rispetto ai settantenni che ieri piangevano che non vedono la fidanzata o il fidanzato. Hanno tutto il diritto di piangere anche loro, ma come abbiamo il diritto di lamentarci. Sì, però facciamo una scaletta di urgenze, capito? Se ne stiano tranquilli. Certo, l'altro abbiamo anche già dato, noi, posso dire la verità. Avremmo potuto avere diritto tutti a vedere le persone che ci stanno più a cuore, con tutte le precauzioni necessarie visto il momento, ma non sono mai stato d'accordo di uno Stato che ti impone questo tipo di limiti fino a questo punto. Tant'è che, sfruttando un pochino il mio lavoro, mi sono organizzato per riuscire a vedere la mia ragazza, diciamo, un po' ai margini della legalità. Il tuo affetto stabile? Sì, esatto, il mio affetto stabile. E come ti organizzi con l'affetto stabile, per capire? Lei praticamente vive in un altro quartiere di Genova, un altro municipio, quindi in teoria sarebbe stato anche complicato vedersi con la scusa dell'andare a correre. Quindi io normalmente, quando finisco il turno di lavoro, mi prendo una delle consegne che avanzano vicino, che sono vicino a casa sua, oppure Oppure se manca quella consegna passo dal fruttivendolo e me la creo e porto la frutta e la verdura a sua mamma. E diciamo che faccio finta che sia una consegna quella che le sto portando e in questo modo vabbè, una consegna lo è a tutti gli effetti, qualcosa consegni e qualcosa prendi. Andrea, 19 anni. Laura, provincia di Bergamo, 20 anni. Laura? Sì. Laura, tanto. Laura, arriva, dai. Ecco Laura, 20 anni. Buongiorno, allora io sono una studentessa di ortottica e assistenza oftalmologica all'Università di Milano. Vivi a Bergamo però, nella provincia di Bergamo, leggo dalla scheda. Sì, sono a casa in questo periodo. Quindi stai in una delle zone diciamo più colpite, più martoriate in questo momento, più difficili da vivere. Ecco, sì, come te la stai vivendo te? Come te la stai vivendo? Beh, le mie giornate sono tutte in camera, davanti a un computer, a seguire le lezioni, a prendere appunti e a studiare, e mi ritaglio qualche ora per preparare dei ragazzini di quinta superiore all'esame di maturità, quindi facendo lezioni private, sempre però in video chat. Quindi più o meno corrisponde la tua vita a quello che hanno detto. Riuscite ad avere un buon controllo delle vostre relazioni attraverso gli strumenti digitali. Qualcuno come Andrea da Milano in realtà cerca anche di usare la sua capacità di essersi, di mantenersi ancora anche nel mondo del lavoro per incontrare la persona che vuole incontrare, che lui va ad incontrare. Martina, buongiorno. Salve, io sono Martina, vengo da Lecce. Sono a Lecce in questo momento e mi sono laureata una settimana prima che scoppiasse l'emergenza. Quanti anni hai Martina? Quanti anni hai? 25. Quanti anni? 25. Ecco, dove vivi in questo momento? Ti sei laureata a Milano, però sei tornata a Lecce. Quindi sei fra quelli che sono scappati in quella terribile transumanza tornando a casa. No, in realtà no, perché mi sono laureata il 18 e il 19 ero già a casa prima ancora che scoppiasse, diciamo, l'emergenza. Quindi è preceduto diciamo, la discesa dei figli verso il sud. Purtroppo, per fortuna, non lo so, però diciamo cosa che ti sei lasciata alle spalle però? Qualcosa rispetto. Avevi una casa, degli amici, un tuo giro, degli ovviamente, affetti? Ovviamente mi sono lasciata alle spalle una casa a Milano che comunque pago tuttora perché diciamo che la questione degli affitti per i fuorisede non è stata contemplata diciamo in nessun decreto a mio parere e lascio anche diciamo un fidanzato che sta a Verona e con cui mi dovevo trasferire a marzo, ma dato il decreto non sono potuta, ecco, non mi sono potuta recare a Verona. Senti, velocemente, questo mi interessa, abbiamo sentito psicologi, psicanalisti, sessuologi, psichiatri, esperti in relazioni. Questa lontananza, un po' come nelle canzoni, rafforza il rapporto o fa venire fuori i momenti più oscuri che non venivano fuori prima? Come te la stai gestendo? Visto che era un rapporto serio, dovete andare a vivere assieme, quindi erate vicini a un passo importante. Certo, diciamo che ci sono giorni sì e giorni no ovviamente, quindi nel momento in cui diciamo c'è bisogno di farsi forza ce la si fa e nel momento in cui c'è bisogno di litigare si litiga, però grazie anche voglio dire alla tecnologia, alle videochiamate, ecco, si riesce a gestire un po' ogni giorno. Ovviamente è difficile, però diciamo ferma un attimo, Martina, mi interrompo solo un secondo, devo dare le informazioni del traffico. Resta lì perché voglio capire meglio come si gestisce una storia d'amore che era nel punto culminante in cui si faceva il cosiddetto passo epocale, si andava a vivere assieme, che è un grande rischio, ma in realtà è una svolta che alla fine chi sta insieme si augura, perché ci viviamo insieme o cambiamo. Fermiamoci un istante. Melog 800240024, devo dire che l'esperimento è riuscito, siamo pieni di telefonate, non ho mai pensato, immaginato, supposto, vabbè che c'è il Covid-19 quindi la gente sta più a casa, che un pubblico così importante di ragazzi sotto i 20 anni o sui 20 anni ci ascoltasse. Oggi cerchiamo di capire e di imparare qualcosa da loro. Avevamo al telefono Martina, però penso che sia caduta. Martina ci ha raccontato comunque che gestisce con qualche difficoltà, ma con caparbietà, il rapporto con un fidanzato a Verona. Sarebbero dovuti andare a vivere assieme, ma si sono fermati e quindi vivono a distanza, questo amore a distanza. potrà regalare molto la loro storia, potrà farla finire. Andrea da Milano, 19 anni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io studio filosofia all'Università di Milano e come vivo questa quarantena? Non è facile rispondere. Ci sono, possiamo dire, due aspetti, no? Un lato positivo è sicuramente che personalmente, amando la lettura, amando la cultura in generale, puoi approfondire cose che magari in aula non approfondisci. E ritornando anche al discorso dell'aula, no, in università, l'aspetto negativo sta nel fatto che la relazione col professore, ma in primis con i compagni, è fondamentale. Cioè, per fare scuola, sì, c'è la didattica a distanza, ok, però capisci che per fare la scuola bisogna avere rapporti tra compagni. Però anche su questo aspetto, grazie alle videochiamate, tutte queste cose qui, non ti nascondo che con i miei amici ci siamo detti molte volte, appunto, con le videochiamate, ma ci sembra di sentirci di più con le videochiamate che dalla realtà, no? Che in contatto. Però ti rendi conto, Andrea, tu appartieni alla cosiddetta generazione Z. Quindi quando io mi preoccupavo del millennium bug, tu ancora non eri manco nato, quindi sei digitalmente e geneticamente strutturato. Però ti rendi conto, questo è il primo vero grande, enorme esperimento sociale, cosmico, collettivo, mondiale, in cui si vede veramente se le connessioni possono corrispondere alle relazioni. Per te tu sei già nato con l'idea che ci possa essere una connessione importante, che la nostra vita è racchiusa nella rubrica del nostro smartphone, del nostro computer. In questo momento cosa stai sperimentando che non sospettavi 3-4 mesi fa? Questo è interessante, che solo tu puoi dirlo, che hai 19 anni. Qualunque lettura mia è viziata dal fatto che io conoscevo il prima e conosco il dopo. Tu il prima non sapevi nemmeno cosa fosse. E adesso nel dopo cosa è cambiato? Ti si è risvegliata un'attitudine che avevi comunque nel tuo patrimonio genetico e sai che comunque si può vivere anche così, o ti manca fortemente il sano, vecchio, antico, che tanta soddisfazione ci dette, contatto fisico? Ma senza dubbio il contatto fisico è fondamentale, ma è fondamentale per qualunque tipo di relazione, eh? Ma già solamente il fatto di salire su un autobus, di dire ciao alla persona che ti sta di fianco, cioè è una cosa importante non solo a livello di comunità, ma a livello personale. Il fatto di magari cedere il posto ad un'anziana sull'autobus, mentre oggi gli anziani non si possono neanche vedere, capisci che possono esserci tutte le videochiamate che puoi fare con i nonni. Sì, con, diciamo, Andrea, che sei una delle rarissime persone che lo fa, perché non lo vedo fare mai, onestamente. Tristemente, noi che abbiamo avuto come imprinting quasi dovere dai nostri genitori il fatto di scattare subito in piedi e cedere il posto, oggi questa cosa è un po' più rara. Tu che hai ancora questa attitudine rispettabile, ammirevole, appartieni comunque a una generazione nuova che ha acquisito dal passato quello che era giusto che si acquisisse e ha degli strumenti nuovi di lettura. È importante questa cosa che stai dicendo rispetto al contatto fisico, perché noi siamo abituati a una lettura trita, codina, bigotta. Questi giovani non dimenticheranno il bello di vedersi le persone, stanno sempre con il naso nei loro smartphone. Non è vero. Questi giovani che sono nati con il naso infilato in un monitor, in un display, sanno perfettamente il valore comunque da dare al contatto concreto, reale, fisico. Era un atto di presunzione, di ignoranza, che ha puntato il dito contro per dire che sarebbe tutta diversa, diventerebbe un'umanità, sta per diventare un'umanità diversa, spietata e disumanizzata, perché ci sono gli schermi. Gli schermi non hanno tolto la memoria biologica del valore del contatto fisico. Anna da Parma, buongiorno. Buongiorno. Io Quanti anni mi sono appena laureata online e sì, in realtà io ho studiato a Milano giurisprudenza, però già da qualche mese ero venuta a Parma a scrivere la tesi, quindi hanno bloccato tutto al momento in cui io l'ho consegnata, perciò sono chiusa in casa da più del periodo del coronavirus. Sì, sì, ce l'ho fatta almeno. Beh, questo è importante. Solo che, solo che io non sono né fidanzata, non vedo le mie amici da molto più tempo, cioè non posso che accettarmi e stare da sola con me stessa. Cioè manco fai in tempo a trovartene un altro di fidanzato in questo momento. Cioè, Infatti, poi trovatelo, ma ve la raccontate davanti a Zoom, non è che alla fine è sempre la stessa cosa. Esatto, non è anche un lavoro in questo periodo, perché volevo trovare uno studio, ma quindi da 10 giorni quindi tabula rasa? Niente, sono scappata in casa dei miei nonni materni che non ci sono più. Abbiamo tu la pensa, casa... io ho notizie, te lo dico, che ci sono centinaia di notai in Italia che hanno chiesto i 600 euro e su questo vorrei aprire una parentesi, ma la stanno chiedendo commercialisti, avvocati, architetti. Sì, ma infatti adesso insomma... cioè ti rendi conto qual è la situazione? No, ma infatti io volevo dire che secondo me in questo periodo la cosa che insomma mi amareggia un po' di più non sono ovviamente le disposizioni che sono state prese, perché non si poteva fare diversamente, però secondo me in questo momento avremmo avuto bisogno di più giornalisti con una, come dire, una lettura un po' più critica di questo momento, perché io non mi sono sentita per niente rappresentata dal modo in cui tutta questa vicenda è stata comunicata, perché da un lato c'è chi cerca di terrorizzarci, quindi dei servizi sui camion che portano le bare nel cimitero di Bergamo, che oddio, per carità, cioè sappiamo tutti benissimo. Dice basta farli vedere una volta, che no, poi alla dico, fine, ma come le persone in terapia intensiva, io l'ho trovato di estremo cattivo gusto e deontologicamente scorretto tra fare della gente intubata, ma che senso ha? Per far vedere che dobbiamo capirlo e farlo capire attraverso altre maniere, ma non a caso noi facciamo la radio e quindi cerchiamo, spero di non essere fra le persone che danno letture superficiali. Io sto cercando da un paio di mesi, lo faccio da casa mia, di cercare proprio di inserire il piacere del dubbio, che è la chiave di lettura di questo spazio. Poi non voglio parlare di me. E proprio nel dubbio è ogni giorno ci si trova disarmati di fronte a qualcosa che non si conosce e si cerca di raccontare. Sentiamo Francesco da Bologna. Sì, buongiorno Francesco. Nicoletti. Sì. Chiamo da Bologna, io mi sono appena laureato in biotecnologie e sono come gli altri ragazzi, sono adesso a casa che impiego il mio tempo per cercare opportunità di lavoro. Che non si trovano per ora come ora, oppure il mio tempo per studiare, non lo so, per fare. Ma qual era la tua aspirazione? Tu sei laureato in biotecnologia, quindi qualcosa che appartiene già al futuro. E cosa pensavi di fare? La mia aspirazione è appunto, cioè a me piacerebbe lavorare in un laboratorio. Io comunque ho fatto anni di tirocinio durante il mio percorso universitario in laboratori. Anche ma quanti per anni hai, scusa Francesco? Io ne ho 24. Certo, a 24 anni uno che è già laureato in biotecnologia mi ha detto che ha fatto anni di tirocinio. Sì, due stiamo anni, tirando fuori anni... stamattina, ma sono il primo, non dico a stupirmene perché non mi sono mai cullato sui luoghi comuni o sulle letture omologate, però esiste una fetta d'Italia che probabilmente non abbiamo mai raccontato in maniera sufficientemente corretta, che è quella proprio della tua generazione. E questa mattina avrei aperto il telefono anche a chi mi dice sto a casa, non faccio un cazzo e mi faccio le canne, ma andava bene lo stesso. Ma evidentemente aver chiamato a raccolta la tua generazione esattamente in questa condizione di attesa, di osservazione, allo stesso tempo di oblio, di stato di fantasmi, secondo me ha avuto un senso. Ecco, tu cosa stai pensando di fare e di immaginare il giorno che ci sarà la riapertura dei cancelli e tutti potranno tornare per strada? E saranno strade molto più desolate in senso lato di quelle che abbiamo lasciato. Io adesso sto comunque lavorando perché i miei genitori hanno una rosticceria e quindi faccio le consegne a domicilio, do una mano loro a mantenere l'attività aperta, perché quindi per strada io comunque giro comunque, anche adesso sono col furgone che andavo a fare le consegne. Però per un futuro, anche con i miei amici parlavo, la vediamo un po' negativamente, perché soprattutto in Italia, cioè per ora c'è poco e niente di opportunità, anche dico la comunque Francesco ti fa onore, scusa, la situazione fa onore pensare che un laureato in biotecnologie con tirocinio se vada in giro a vendere gli arrosticini dei genitori lo faccia con grande orgoglio, mi fa molto piacere sentirlo e ti sono molto grato avermelo raccontato. Saluto Diletta Begali, scusami Didi che sei stata al telefono tutto questo tempo, ma tu sei stata la apripista, hai avuto un grande problema. Merito. Ti riconosci in questi tuoi colleghi? Assolutamente, bravi ragazzi, e capisco proprio la frustrazione, quindi forza e coraggio a tutti. E sì, però non esagerate a fare bravi ragazzi in realtà sono noiosissimi. Siete bravi ragazzi, ma siate anche un po' scavezzacollo, vi prego. Alla prossima.